Eccoci qua, sono le 11.09, benvenuti. Riparte, ma sono magica! Grazie Carmelo Lauricella. Cheese. Ecco la parola magica per sorrisi più o meno spontanei. Con voi funziona? Io mi auguro di sì. Non solo perché quando sorridiamo siamo più belli e la foto, diciamo la verità, ci guadagna, ma anche perché chi in foto è sorridente vive più lungamente. Questo almeno dice la ricerca. Intanto che la dottoressa Maria Giovanna Luini, buongiorno dottoressa. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Scrittore, medico e comunicatore scientifico all'OIEO, l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, ci racconta la ricerca. Cercate di recuperare, se potete, le vostre foto e contate i vostri sorrisi. Dottoressa Luini. C'è questa ricerca bellissima che riguarda la longevità. Dovete sapere che una delle aree più difficili da studiare è proprio la longevità, perché tanti... È caduta anche la dottoressa Luini e commenteremo più tardi, appena si potrà riprendere il collegamento, questa ricerca. Intanto voi avete tempo di cercare le vostre foto. C'è una ricerca infatti che dice che chi è sorridente in foto vive più a lungo. Ce la faremo raccontare dalla dottoressa Luini. Intanto io sorrido alla dottoressa Veronica Bismaro, odontoiatra esperta di rieducazione funzionale del cavo orale di occlusione, che è qui in studio con me. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Dottoressa, c'è chi suggerisce perfino di sorridere qualche minuto davanti allo specchio come esercizio del mattino. Si dice che aiuta a iniziare bene la giornata. Ma insomma, può essere. Comunque provare costa poco, anzi nulla. Il più è ricordarsi di farlo. In ogni caso, se l'umore non decolla, le labbra si rinforzano. Tutti sappiamo infatti che con il passare degli anni le labbra si modificano, cambiano forma, volume, si assottigliano, impallidiscono anche un po'. Allora, un po' di esercizio non può che far bene. Esatto, non può che far bene a tutte le cose a cui servono le labbra, quindi all'estetica, al nostro sorriso, ma anche a parlare correttamente, articolare correttamente le parole, a deglutire, a baciare. Ecco. Vuoi mettere? Certo, che infatti. Infatti è un'ottima ginnastica questa. Infatti il famoso bacio sorriso, cioè passare dalla postura delle labbra a forma di bacio un po' esasperato, cioè molto molto bacio, a molto molto sorriso, già è un esercizio di tonificazione. E un altro esercizio interessante è anche quello della lingua, solito, che di passare la lingua all'interno delle labbra per distenderle. E poi è interessante verificare come rimangono le nostre labbra quando noi chiudiamo la bocca, semplicemente in modo rilassato. Controlliamo se si vedono i denti o no, cioè se durante la chiusura rilassata della bocca le labbra chiudono o se sono un po' scoperte. E quello... E poi un'altra indicazione forse importante, dottoressa Bismara, è di controllare dove sono i denti quando le nostre anche... le labbra sono chiuse. Saranno naturalmente attaccati, ma dove? Ma dove, infatti, e lo vedremo nel corso della trasmissione. Strada facendo. E che cosa succede mentre deglutiamo? Ma intanto torniamo dalla nostra dottoressa Maria Giovanna Luini. Dottoressa Luini. Sto sorridendo perché oggi a quanto pare giochiamo con il sorriso e anche con il collegamento. Stavo dicendo che questa ricerca è andata a guardare la durata della vita di un certo campione di persone. Erano e sono dei giocatori di baseball, simili tra loro ovviamente per tutte le condizioni fisiche e di vita. Hanno guardato i ricercatori tutte le foto di questi signori, hanno stabilito quali di questi signori sorridessero di più, fossero persone più portate al sorriso. Ebbene, la scoperta è stata veramente notevole, secondo me. Viveva e ha vissuto molto, ma molto di più chi ha sorriso tanto. Questo secondo me non è casuale, perché dicevo, la longevità è difficilissima da studiare e l'unica cosa che finora è stata realmente trovata è che vive molto di più chi si dedica al proprio talento, alla propria passione, alla propria inclinazione e di conseguenza è più felice. Questo è un dato scientifico in realtà. E quindi questa ricerca che dice che chi sorride di più vive anche di più ha delle basi concrete per essere vera. Ricordo solo una cosa, che sorridere predispone anche l'altro a un migliore impatto, cioè se io chiedo una cosa sorridendo, metto in moto nell'altro un meccanismo psicologico che porta a dirmi di sì a priori. Prima di salutarvi, restando comunque in ascolto della vostra bella trasmissione, vi chiedo, vi è mai capitato di dire di sì a una proposta che in realtà vi sembrava un po' sciocca oppure contraria al vostro desiderio solo perché chi stava proponendo sorrideva? Bella questa domanda, adesso mi sta facendo... io un sacco di volte, 800 24 00 24, grazie alla dottoressa Maria Giovanna Luini, di cui ricordo il titolo del libro a proposito di longevità, si intitola infatti Longevità, un libro che la dottoressa ha scritto con il professor Umberto Veronesi, Bollati Borinchieri editore. Grazie! Mi prova a ridere col naso, fa più o meno così, orrendo. Chi prova a ridere tra i denti potrà solo un serpente imitar. Quasi disgustoso, non mi piace affatto. In fretta va, chi vuol scoppiar? Ah! Il uccellino ti fa. Basta un sorriso, quindi, tante volte per convincere l'altra persona a dirci di sì. Le è capitato? Assolutamente, ma mi è capitato anche di convincere con un sorriso. Io, a proposito di quello che diceva la dottoressa, che condivido totalmente, al mattino ho scritto con il rossetto sul mio specchio: oggi una splendida giornata, e ho fatto lo smile, così quando mi alzo è la prima cosa che leggo, e comunque qualsiasi pensiero io abbia sorrido, perché viene da sorridere. Dice che funziona. Funziona. Sì, qualcuno sì. Di voi si sorride al mattino davanti allo specchio, mi portate la vostra così esperienza e mi dite se funziona. 800 24 00 24. Dicevamo, dottoressa, che le labbra sono delicate, ma a pensarci i denti non sono da meno. A volte basta bere qualcosa di freddo, di caldo, sono dolori. Anche di zuccherino, di acido. E questo significa che noi abbiamo un problema di sensibilità, ipersensibilità dentinale, cioè abbiamo i denti più sensibili di quello che dovrebbero. E questo è perché c'è una sorta di retrazione delle gengive. Le gengive salgono e scoprono una zona molto delicata del dente che si chiama colletto. Il tallone d'Achille. Il tallone d'Achille del dente, perché in quella zona non c'è lo smalto, è scoperta proprio la radice del dente e quindi non è coperta e al riparo dagli insulti esterni, chimici o termici. Come facciamo ad accorgercene? Allora possiamo, oltre alla sintomatologia ovviamente, certo, che va esclusa che ci siano problemi di carie prima di tutto, chiaro, ma se non ci sono problemi di carie e questo è un dolore che arriva proprio in concomitanza di bevande o appunto cose fredde o acide, possiamo guardarci sempre con l'aiuto dello specchio e osservare i nostri denti per vedere se per caso c'è una sorta di scalino alla fine del dente, prima della gengiva. Può esserci solo il dente che dal punto di vista estetico ci sembra lungo, oppure addirittura proprio una tacca, e lo possiamo anche sentire con il dito a volte, no? Che c'è questa tacca. Ci sono dei motivi precisi per cui queste cose accadono. Dove sta il malato? Ecco là. Chi è lui? E che c'ha? Non lo so, non mi va a mangiare. È per questo che mi ha chiamato, signore, 15 chilometri per dirmi che il bimbo non mangia. Ma che dovevo fare? Eccolo il medico, che visita il nostro malatino. Tira fuori la lingua. Siamo virtualmente dal dentista, parliamo di denti, di labbra, di lingua, di questo microcosmo straordinario che a volte ci dà dei problemi un po' seri, ma che noi possiamo con costanza, anche prevenire, ecco, assolutamente. E noi tornavamo alla sensibilità dei denti, a queste gengive che si ritraggono. Quali possono essere le cause? Allora, le cause fondamentalmente possono essere tre, di tre tipi. Il primo è proprio un'infiammazione gengivale che provoca quindi una retrazione come reazione al processo infiammatorio, e qui ci vuole il dentista, un po' di igiene orale più curata, eccetera. La seconda è un trauma occlusale, cioè quando noi usiamo i denti troppo, o stringiamo, digrigniamo, questo trauma può trasmettersi anche a livello gengivale, non solo all'osso che sorregge il dente, e provocare appunto questa retrazione. Ecco, facciamo un piccolo stop, perché abbiamo detto ai nostri ascoltatori di chiudere la bocca e di prendere consapevolezza, esatto, come dite spesso voi, della posizione dei loro denti. 800 24 00 24, un ascoltatore mi ha detto sono al loro posto, ma sì, quale sarà il posto esatto, esatto, caro ascoltatore mio? Allora, dottoressa Vismara, quindi tante le ragioni, sì, che l'ultima causa che volevo raccontarvi, perché è proprio il nostro possesso l'evitarla, è lo spazzolamento troppo vigoroso, perché a volte proprio con uno spazzolino troppo duro o con dentifrici troppo abrasivi provochiamo noi stessi la retrazione gengivale e addirittura consumiamo lo smalto dei denti. E allora approfittiamo di avere la bocca aperta per guardarla con attenzione, perché la bocca, in modo particolare la lingua, le mucose, ci danno informazioni sulla nostra digestione. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Vincenzo Stanghellini. Buongiorno. Buongiorno a lei. Professore di medicina interna dell'Università di Bologna e direttore dell'unità operativa di medicina al Policlinico Sant'Orsola Malpighi. Professore, iniziamo dalle labbra, i taglietti che sono dolorosi vicino sugli angoli della bocca? Sì, la bocca e la mucosa della cavità orale ci possono dare informazioni importanti sullo stato di salute del paziente, in modo particolare dall'apparato digerente. I taglietti agli angoli della bocca, che si chiamano boccarola o cheilite angolare, sono quelle lesioni fastidiose che quando si apre troppo la bocca, magari dal dentista, poi si spaccano, come se la mucosa non fosse sufficientemente robusta per resistere a questa trazione. Sono un indice di diverse malattie, di solito sono un'infezione anche da funghi, come la candida si può annidare in questi taglietti, è più frequente nelle persone di una certa età, ma spesso in pazienti che hanno problemi di digestione con malassorbimento, quindi un intestino che non assorbe bene, e una mancanza di ferro o di vitamina B può determinare questa cosa. I taglietti, come si chiama? Boccarola? Boccarola o cheilite angolare. Mamma mia, che nome! Comunque, un nome un po', ma boccarola di solito. Boccarola, vero? Viene boccarola. Allora, e procediamo dopo i taglietti? Io avrei altre due piccole segnalazioni, una molto importante e spesso sottovalutata, che sono le afte. Sì. Di afte soffre una 10% della popolazione generale, una cosa molto frequente, sì, che è molto dolorosa, una specie di ulcerina che viene nell'interno delle labbra o sulla lingua, a volte hanno anche dimensioni grandi, e sono un chiaro indice che qualche cosa nell'apparato digerente non va bene, o nella flora intestinale, oppure un problema di immunitario, diciamo, cioè quando un intestino non riesce a difendersi adeguatamente, oppure quando l'intero organismo ha troppo stress, troppa stanchezza, e quindi il sistema immunitario non riesce a difendersi dai germi che si trovano nella cavità orale. Ma anche in questo caso non è solo lo stress, ma può farci pensare anche ad allergie, per esempio. Ci sono molti pazienti allergici che magari non lo sanno e che si ritrovano queste lesioni dolorose all'interno della bocca. Ci sono carenze, quindi sì, malassorbimento, abbiamo parlato altre volte di celiachia. Bene, i pazienti che hanno un malassorbimento grave come i celiaci, o pazienti che hanno altri tipi di malassorbimento e quindi ancora una volta non hanno abbastanza vitamina B, non hanno ferro, non hanno acido folico, eccetera, eccetera, eccetera, possono avere queste lesioni. Quando un paziente ha frequentemente delle afte, è assolutamente necessario che si ipotizzi quantomeno un problema intestinale anche piuttosto rilevante. Professore, quando lei dice frequentemente, che cosa intende? Una volta al mese, magari un periodo più ravvicinato? Ma ci sono le persone, per esempio, che ce l'hanno una volta al mese perché hanno in coincidenza col flusso mestruale. Ci sono persone che hanno lunghi periodi di benessere e poi per un momento di stress l'hanno ininterrottamente per mesi. Sì. Quindi la frequenza è variabile, però se un paziente ha un evento all'anno direi che non è assolutamente un segno di cui preoccuparsi, ma se ritornano queste lesioni dolorose ritengo che sarebbe utile porsi il problema di qualche aspetto dell'apparato digerente che non funziona. Professore, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Buon lavoro a voi, arrivederci. Claudio, buongiorno, da Lecce, 800 24 00 24. Vediamo, Claudio. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io volevo intervenire su una trasmissione per dire una cosa. Ho sempre, in qualunque momento, la battuta abbastanza facile. Faccio sorridere quando ci troviamo in fila al supermercato, alla farmacia, tutti i posti, insomma. La battuta vale. Alcune volte spontaneamente viene da ridere a me per determinate cose, mi alzo molto allegro, molto sveglio, tutte queste cose qua. Volevo sapere dalla dottoressa se quando faccio sorridere gli altri, quello può essere una cosa buona anche per me. Ma certo. O serve per loro. Insomma. Ma no, Claudio, è reciproco. Assolutamente, assolutamente. Cioè, anche perché la relazione avviene in due. E siamo sempre in due che comunichiamo. E nel momento in cui lei fa sorridere questa persona intanto le dà la sua gratitudine, che è un sentimento fantastico da avere dagli altri. E poi comunque resterà ben disposta nei suoi confronti. Quindi stia tranquillo che ogni sorriso ritorna indietro come un boomerang, tutto, positivo. Tutto torna. Diciamo così. Meglio le cose buone mandare. Salvatore, buongiorno, ci chiama da Isernia. Sì. Eccoci. Posso? Lei sì che può. Vorrei fare una domanda al professore, al dottore. Io ho una protesi mobile davanti. Sì. Però uso la pasta adesiva. Con il tempo può creare problemi. Grazie Salvatore. Allora, questo è uno dei motivi per cui possono esserci proprio anche delle lesioni aftose e delle lesioni alle mucose, per cui è molto importante che se una persona utilizza una protesi mobile, questa protesi mobile sia perfettamente calzante, che non basculi, che non dondoli, che non provochi delle irritazioni, per cui lei deve semplicemente essere certo che questa protesi sia congrua con la sua bocca. Perché altrimenti sì, possono dare proprio afte, stomatiti, micosi, problematiche molto fastidiose. Torniamo ai nostri denti sensibili, dottoressa Wismara, abbiamo individuato quali possono essere le cause, abbiamo scoperto che c'è un punto, il tallone d'Achille del dente, che stimolato provoca questo dolore. Ci sono anche delle attenzioni che possono in qualche modo ridurre questa sintomatologia dolorosa. Esatto, allora la sintomatologia può essere anche causata da cibi acidi, ad esempio, quindi bisogna stare attenti a chi fa molto uso di frutta acida come il limone, l'arancio, piuttosto che il fumo, piuttosto che certi dolci, insomma anche l'alimentazione, le bevande gasate, certi ragazzini arrivano coi denti abrasi dalle bevande gasate, oltre che colorati, per cui è molto importante fare molta attenzione in questo senso. Servono i dentifrici per denti sensibili? Allora, dentifrici per denti sensibili sì, è una cosa da utilizzare, anche perché è meglio evitare i rimedi quelli classici della nonna, perché a volte possono essere più pericolosi che altro. Ecco, molte persone utilizzano il bicarbonato per avere biancamento del dente. Allora, ecco, un rimedio naturale. Attenzione. Allora, il rimedio che funziona di più con il bicarbonato per la sensibilità, quindi non per lo sbiancamento, ma per la sensibilità, è questo. Mettere in due dita di acqua tiepida, un cucchiaino di bicarbonato da sciogliere perfettamente e poi con un cotton fioc mettere questo bicarbonato proprio sul colletto del dente, tamponare strofinando per un minuto delicatamente, e questo se si fa con la pazienza e la costanza per 10-15 giorni dovrebbe fare veramente smettere in modo definitivo questa sensibilità. Invece mai assolutamente il bicarbonato sullo spazzolino assolutamente a secco, ecco, cioè quello vuol dire provocarsi un'abrasione dello smalto. 800 24 00 24. Torneremo insieme subito dopo i mercati e il meteo per sorridere, per guadagnare un tono per le nostre labbra. La dottoressa Vismara ci suggerirà anche degli esercizi e soprattutto cercheremo di capire come si chiude la nostra bocca. Domanda apparentemente banale ma essenziale per il benessere della nostra bocca e non solo. La bocca, ricordiamo, è collegata al collo. Collo e alla postura. Essere e benessere. Che è successo ai tuoi denti? Li ho sbiancati. Davvero? Già, che ne pensate? Penso sia meglio guardarli con gli occhiali scuri. Sono davvero molto, molto, molto bianchi. Già, che cosa non andavano i tuoi denti umani? Forse avrò lasciato il gel un po' più a lungo del tempo prescritto. Quanto di più? Un giorno. Denti bianchissimi, sorriso hollywoodiano, ma sbiancando i denti li rendiamo in qualche modo più sensibili. Eh sì, e soprattutto... È un po' un prezzo che dobbiamo pagare. Allora, quello succede se si utilizzano anche i dispositivi professionali, come diceva questo bellissimo stacchetto. Cioè, i dispositivi professionali utilizzano una sostanza che si chiama perossido di carbamide, che è un fratello minore dell'acqua ossigenata, in fondo, e che viene posizionato in una mascherina che aderisce perfettamente ai denti e che viene lasciato... Una specie di impacco. Ecco, bisogna stare attenti. Chi ha già i denti sensibili si aspetti un aumento della sensibilità, perché lo smalto diventa poroso in quei giorni e quindi poi il caldo e il freddo. Infatti poi è utile fare degli sciacqui, sempre sciacqui, con acqua tiepida e bicarbonato. Lei ha il terrore del bicarbonato. Io sono terrorizzata dal bicarbonato perché ho visto tante di quelle abrasioni causate proprio dal bicarbonato. Perché usato riusciamo anche a farci del male. Sì, assolutamente, per essere belli. Simone, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Eccoci. Ecco, mi riallacciamo appunto a questo discorso della pulizia eccessiva dei denti, pulizia soprattutto meccanica, sì, che facciamo noi anche un po' da autodidatti, in particolar modo appunto per il bicarbonato di sodio. E questo bicarbonato appunto facendo delle abrasioni, provocando possibili abrasioni sul dente, queste abrasioni sono definitive, quindi compromettono il dente stesso? Dica, perché Simona, lei l'ha usato? Io da piccolo me lo facevano usare, sì, i genitori, per poter sbiancare anche, per tenere i denti bianchi, sì, e poi l'ho usato anche. Sì, perché poi adesso senti come ride. Sì, perché si usavano. Eh sì, si usavano. Rimedi, certo. Come rimedi della nonna, la salvia. La salvia va meglio, vero? Del bicarbonato. Sì, un pochettino meglio, però. È molto più aggressivo e risolutivo. Però appunto ho sentito che provoca delle lesioni, abrasioni, ecco, sì, la dentina. Volevo sapere se queste abrasioni erano definitive oppure si potevano ripristinare col tempo. E l'ultima cosa, se era possibile anche riallacciarmi al discorso dei cibi, se ci sono cibi che danneggiano o addirittura aiutano a non far sì che questa dentina possa essere danneggiata col tempo. Mm-hmm. Allora, chiaramente purtroppo lo smalto quando è stato abraso non c'è niente da fare, perché... Non ce lo dica così, però. È così, purtroppo, cioè se qualcuno inventa qualche cosa che fa rigenerare lo smalto, esistono dei dentifrici che aiutano parzialmente la ricostruzione, ma quando un'abrasione è meccanica, fisica, quando c'è proprio quelle tasse tacche famose di cui vi parlavo, allora lì l'unica cosa da fare è affidarsi al dentista, anche perché in quella zona il dente diventa molto più sensibile alla carie, è molto più cario recettivo perché non c'è lo smalto che lo protegge. E il dentista ci fa una specie di rattoppino colorato col colore giusto del dente, ma se il paziente continua a usare lo spazzolino in modo un po' troppo vigoroso e sbagliando la metodica di spazzolamento, riesce ad abbradersi anche l'otturazione. Quindi è molto importante che la persona impari a utilizzare correttamente lo spazzolino. Che ricordiamo? Non va, essere allora deve essere medio, non deve essere duro, al limite quello rotante è più semplice da utilizzare perché evita per forza queste tipo di problematiche, anche se io ho dei pazienti che nonostante abbiano lo spazzolino rotante ci danno lo spazzolino come... rotante e lo spazzolino elettrico. Elettrico, sì, sì. E poi lo spazzolamento... Ma lei dice di alternarlo allo spazzolino normale o convertirsi all'elettrico? Allora, se uno ha voglia convertirsi all'elettrico è meglio, però è un pochettino più lunga come procedura, anche se è veramente più efficace, più innocua. Altrimenti con lo spazzolino normale, importante è spazzolare dal colletto delle gengive, cioè verso il basso, dall'alto verso il basso, delicatamente, solo in quella direzione, o dal basso verso l'alto se stiamo parlando dei denti inferiori, e mai di traverso, mai di traverso, perché quello... Ma guarda me, io non me lo faccio così di traverso, no, perché mi guarda come per dire attenzione. Ecco, attenzione, le gengive durante lo spazzolamento possono sanguinare. Però questo è un sintomo di qualcosa, è come se quando ci laviamo le mani ci sanguinassero le dita, cioè non è normale un sanguinamento gengivale. All'inizio non dovevo andare all'università, dovevo diventare igienista dentale come mia sorella Beverly e io ho profondo rispetto per denti e gengive, in particolare per le gengive, tutta la mia famiglia lavora nei denti. Che cosa stai fissando? Hai uno smalto bianchissimo. Grazie, grazie. Smalto bianco, gengive rosate. Rosa, sì. E sono questi i colori di una bocca sana. Sì, coi puntini. Deve essere a buccia d'arancia la gengiva, punteggiata. Se sanguina, è segno che è infiammata. Segno che è infiammata. Ma va comunque pulita. Va assolutamente pulita. Non è che per solidarietà con la gengiva uno si astiene, perché questo aumenta l'infiammazione e da gengivite si può trasformare in qualcosa di più serio. Chiudendo le labbra, dove stanno i vostri denti? 800 24 0024. Giampaolo da Cagliari, Alfredo da Trieste, Martina da Trento, buongiorno a tutti e tre. Giampaolo, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Io ho un problema, lo scalino, ci parlava prima. Sì, si è trovato lo scalino? Sì, sì, sì. La gengiva si è un po' ritirata e è apparso questo scalino. Allora, grazie a Giampaolo. Significa, c'è lo scalino. Sì. Intanto mi dica da che parte è, destra o sinistra? Come? È a destra o a sinistra? Cosa vuol dire a destra o a sinistra? Della sua bocca, lo scalino. Da tutte le parti. Da tutte le parti, perché le spiego. Normalmente i destrimani usano molta più forza sulla parte sinistra, per cui è più facile che questi scalini si formino a sinistra. Ne sa una più del diavolo la ecco, nostra allora, tante volte uno invece dice, lui ha fatto in modo equilibrato, lui ha fatto da tutto, per par condicio, certo. Destra, sinistra, a posto. Cosa può fare? Questo va... Come dicevamo, il dentista può mettere questo smaltino. Sì, questo smaltino, ma intanto lui deve continuare a pulire quello scalino con più delicatezza, se non va dal dentista a sistemarlo, diciamo, a livellarlo, ma continuare a pulirlo, e se sente il freddo può fare quell'operazione con il cotton fioc molto delicata, con il bicarbonato diluito in acqua tiepida e poi posizionato lì un minuto su ogni dente per 15 giorni di fila, continuando a intingere il cotton fioc all'interno di questa soluzione. Andiamo a Trieste, c'è Alfredo, buongiorno. Posso? Volevo fare due domande velocissime. La prima è se io posso un attimino pulirmi i denti con la buccia del limone. Secondo è per quanto riguarda la lingua. So che se è vero che la mia lingua muove 48 muscoli, per cui il problema della deglutizione, della masticazione e anche la lingua che spinge molto forte contro i denti. Volevo capire un attimino sia col frenulo sia con la lingua che problemi dà e cosa si può fare per anche la posturologia. Grazie. Grazie. Iniziamo alla prima domanda, perché poi andiamo a fare un saltino sulle strade per capire che cosa sta succedendo. Questa buccia di limone. La buccia del Ma limone. Ci sono i dentifrici. Sì, la buccia del limone è molto acida, per cui certo direi che magari sbianca, però le provoca senz'altro un'abrasione dello smalto. Quindi eviterei. Direi di no. Essere e benessere. Dottoressa Vismara, allora riprendiamo il tema suggerito dal nostro ascoltatore, che ci porta a parlare di occlusione, di mala occlusione. Noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori dove tenete i denti quando chiudete le labbra, perché i denti devono avere una posizione corretta per garantire tutto l'equilibrio e il buon funzionamento della nostra bocca, il che vuol dire la masticazione, la deglutizione, l'articolazione. La postura. La postura. Allora, i denti, quando siamo a riposo, devono essere leggermente staccati. Ci deve essere sempre quello che viene chiamato uno spazio libero tra le superfici dei denti superiori e quelli inferiori, mentre le labbra devono essere in modo rilassato chiuse, cioè non devono vedersi i denti quando siamo rilassati, altrimenti significa che c'è il labbro superiore un pochettino corto. Andiamo a Martina, che ci chiama da Trento. Buongiorno. Buongiorno, intanto complimenti per la trasmissione. E senta, io avevo questa domanda. Io ho problemi, ho 35 anni, appunto, ho problemi di malocclusione, però intorno ai 18-19 anni mi sono accorta, perché avevo questo scrocchio della mandibola quando mangio, insomma, è abbastanza quotidiano. E dopo, appunto, come ripercussione, ho cominciato ad avere problemi di mal di testa, la pomeriggio era cervicale, però è dovuta probabilmente alla malocclusione. Quindi, vabbè, il dentista mi aveva consigliato di mettere un bite. Sì. Che questa, inizialmente me l'ha messo solo sopra, fatto di silicone, poi gli ho detto che insomma secondo me non aveva grandi risultati, perché sentivo comunque che in bocca, che la bocca la notte non stava in una posizione comunque giusta, e mi svegliavo la mattina che mi sembrava di averla ancora più tesa, proprio a livello di queste sensazioni che ci descrive Martina ci aiutano molto, dottoressa Vismara. Sì, assolutamente, perché diciamo ai nostri ascoltatori: se avvertite la bocca tesa, la bocca stanca quando vi alzate al mattino, è possibile che voi digrignate i denti o abbiate un problema di mala occlusione. Martina, adesso come sta andando? Io purtroppo adesso l'ho sospesa, perché io quasi tutti gli anni, una o due volte all'anno, devo comunque intervenire sui denti in maniera anche abbastanza forte, per cui devo cambiare ogni volta, o mi levano un dente, quindi me lo rifanno, lo costruiscono, e quindi anche questo per me è un po' un impedimento a portare il bite in costanza, perché ogni volta devono rifarmelo. E per cui adesso insomma comunque non sta andando bene, ma soprattutto la mia domanda era, ci sono dei bite... cioè, perché io non so se è specialista il mio dentista in queste cose, in poche parole. Ci sono dei bite che, se è più sicuri, fatti magari in un certo modo, che magari tengono che non tengono solo la bocca aperta, ma la tengono magari anche in linea. Quindi Martina ci dice il bite ideale, fatto su misura per il paziente, esiste o no? Certo, Martina ha fatto una piccola lezione di gnatologia, cioè il bite può essere più dannoso se viene fatto in modo così non perfetto e non preciso. Non adeguato. E tante volte addirittura le persone con il bite in bocca tendono a serrare o a digrignare di più, perché sentono il duro, gli viene più voglia. Quindi comunque il bite deve ripresentare al cavo orale un'occlusione fintamente perfetta, se una persona ha una malocclusione. Quindi è assolutamente importante che Martina si rivolga a delle persone specializzate in gnatologia, perché esistono tantissimi modi di fare i bite e ognuno ha il suo obiettivo. Quello che bada di più alla parte muscolare, quello che bada di più alla parte occlusale. Quindi anche qui è importante che le persone, per individuare il fatto di avere o meno una malocclusione, si mettono le mani davanti alle orecchie e provino a aprire e chiudere la bocca. Se sentono un rumore sordo, o a volte non tanto sordo, provenire dall'articolazione, che si chiama articolazione temporomandibolare, significa che c'è un problema. Con il vostro medico, gnatologo o il dentista, affidatevi. Serena, buongiorno da Roma. Buongiorno a tutti. Senta, io volevo fare una domanda, volevo sapere se l'uso del tè, e in particolare del tè verde, aiuta a prevenire le carie. Le dico questo perché io ho un passato da da bambina problematica per quanto riguarda le carie, cioè io stavo sempre dal dentista. Sì. Da 10 anni uso regolarmente tutti i giorni il tè verde. Sì. Non ho mai più avuto una carie. Si lava forse anche meglio i denti. Sì, essendo cresciuta, dato che è cresciuta, magari passa Serena, il filo interdentale. Serena, tè verde per le carie. Allora, il tè verde comunque è pieno di antiossidanti, per cui fa bene in ogni caso. Dire che c'è una conseguenza così lineare in una in un organismo complesso come siamo noi è un pochettino azzardato, però tutto aiuta. Tutto aiuta. L'antiossidante aiuta. Tutto gira, gira, tutto girano le giri biri. Coccole, coccole. Lascia andare, non drammatizzare, ma strapazzami di coccole, coccole. E insomma, la coccola vale quanto un sorriso. Quando non avete voglia di sorridere, lasciate che a farlo sia la vostra pelle. In linea con noi la professoressa Alessandra Graziottin, ma bentornata! Grazie, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Scusate questa voce tremenda, però la passione di essere con voi c'è tutta. Direttore del Centro di Ginecologia all'Ospedale San Raffaele Resnati, ricordo anche la fondazione della professoressa Graziottin. Professoressa, uno studio americano pubblicato su Nature ha misurato gli effetti della carezza, promuovendo la carezza addirittura ad un sesto senso. Io l'ho paragonato un po' al sorriso. La carezza in realtà è non è un sesto senso, va a toccare il tatto, però il concetto di sesto senso è quando noi attiviamo un senso che in realtà immediatamente ne attiva molti altri. Perché? Perché quando noi accarezziamo o siamo accarezzati, abbiamo innanzitutto una risposta meravigliosa, formidabile, non solo a livello della pelle, ma la pelle, ricordiamoci, ha la stessa derivazione neuroectodermica, cioè dal foglietto che dà origine anche al cervello. E nel momento in cui noi accarezziamo, riceviamo una carezza, abbiamo un aumento nel cervello di un ormone, un neuroormone straordinario, che si chiama ossitocina. Cosa fa questa fantastica ossitocina? Scrive nel nostro cervello chi è la persona che ci sta accarezzando, quella che noi stiamo accarezzando, e in che quel momento ci rende felici. Scrive i nostri legami d'amore. Più noi siamo accarezzati, ma attenzione, perché dicevo altri sensi? Perché nel momento in cui qualcuno ci accarezza, normalmente lo guardiamo. Ed ecco l'associazione tra segnale visivo, e quasi sempre quando accarezziamo o siamo accarezzati, è uno sguardo d'amore. Più noi abbiamo e riceviamo uno sguardo d'amore e una carezza, più in quel momento la nostra vita si illumina. E io voglio dedicare subito un'attenzione particolare a due categorie di persone che hanno un immenso bisogno di carezza, che tutti ci accarezziamo quando siamo innamorati, lo sappiamo tutti. È troppo malati, facile, certo. I malati e gli anziani. Andiamo in ospedale a trovare un amico, un parente, cioè non stiamo i piedi al letto, prendiamo una sedia, mettiamoci seduti vicino al capezzale e prendiamo la mano di questa persona, accarezziamola e guardiamola e parliamole. Ecco il terzo senso, la voce carezzevole, la voce tenera, la voce morbida, la voce che ti dice sono qui per te, potenzia enormemente quel segnale della carezza. Quindi lei, in Nature naturalmente, aveva molta ragione nel dire in realtà attiviamo una sensorialità complessa che noi definiamo sesto senso, perché nel linguaggio comune il sesto senso è quella sintesi di intuizioni che noi abbiamo sugli altri e sulla vita, che in realtà è prima di tutto una sintesi polisensoriale che poi naturalmente nel nostro cervello si integra con la memoria, l'esperienza e questa grande capacità di ascolto che noi sviluppiamo se amiamo gli altri, se vogliamo porci in relazioni con gli altri. E allora ricordiamoci che con la carezza noi possiamo regalare qualità di vita, salute. Perché salute? Perché attenzione, quando sale l'ossitocina salgono anche le endorfine, che sono i nostri analgesici interni, le molecole della gioia. Una persona che è sofferente, una persona che è malata, se noi la accarezziamo ha un miglioramento degli indici di salute, si abbassano le molecole infiammatorie e ha meno dolore. E vi voglio ricordare un altro studio, se ho ancora un secondo, che era stato condotto anni fa, ma che mi piace sempre ricordare. Uno studio controllato che è stato condotto sui prematuri. E il titolo del lavoro era poi Accarezza, mi maturerò. Tra un gruppo di bambini prematuri che aveva tutte le cure standard, tutti i due gruppi, ma uno era anche accarezzato dalle infermiere per un tempo standard, 3 volte al giorno, 4 volte al giorno. I risultati dicono significativamente una maturazione degli indici polmonari migliore. Questo la dice lunga, quindi promuoviamo carezze e sorrisi e baci. E baci. Grazie alla professoressa Graziottin, dottoressa Visvara, grazie a lei, buona grazie giornata a voi. Tutto e noi ci sentiamo lunedì. Ci vogliono 72 muscoli per fare il broncio, ma solo 12 per sorridere. Provaci per una volta. Mordecai Richler. Essere e benessere.